Non credo alla Bibbia, mi chiedo perché dovrei consultarla, offende gli dèi. Non prego la Chiesa, il fetore che fa. Non credo nel cielo e nemmeno all'inferno, e non so distinguere il bene dal mare che nutre cariddi di voracità. Non credo al mercato, produce demenza, così come è falsa la beneficenza. Diffido del saggio e di quello che sa. Finisce l'erba e l'acqua scola, un bimbo chiede come mai, fiorisca il cardo di viola, poi fra le viole sceglie. Perciò stanotte dormi qui, che non esiste oscenità. Freghiamo la pornografia e dammi figli e verità e sesso orale e santità. Guardate le spiagge, guardate la fame, il figlio di Troia che appalta la Rai. Io credo nel peggio che deve arrivare, nell'ego dei calcoli dei governanti, e quindi mi servono armi, lo so. E allora li cerco in alburi di stelle, ma anche fra croci e fra cassa integrati, muscoli magri da cerva che hai. Arrivi e dici dolcemente che vecchio stupido che sei. Ed accarezza